posso riposare appoggiandomi sopra le stelle. Nessuno più mi farà del male, nessuno più potrà giudicare se sto bene o se sto male. Ora faccio proprio quello che mi pare. Non serve piangere, non serve ridere, non serve proprio niente. Il tempo qui è scaduto, vi lascio solo un pianto, un ricordo. Ho fatto cose giuste, ho fatto cose brutte, ma in fondo me l'avete fatto pagare. Non posso togliere dalla mia testa quella oscura camera da letto, quel buco nero senza luce, senza sole. Non sapevo più il giorno, non sapevo più il mese, le ore, da quanto ero qui dentro, qui dentro. La finestra sempre chiusa, poi ovvio anche mio cuore. Ma non ti preoccupare, ora mi sento bene da qui, posso riposare appoggiandomi sopra le stelle. Nessuno più mi farà del male, nessuno più potrà giudicare se sto bene o se sto male. Ora faccio proprio quello che mi pare. Non serve pensare, non serve odiare, non serve proprio niente. Il tempo qui è cancellato, vi lascio solo un canto, un ricordo. Ho fatto cose giuste, ho fatto cose brutte, ma in fondo me l'avete fatto vedere. Non posso togliere dalla mia mente quegli oscuri anni a letto, quella stanza nera senza luce e senza sole. Non sapevo più il giorno, non sapevo più il mese, le ore, da quanto ero qui rinchiuso, rinchiuso, rinchiuso. La porta sempre chiusa, poi ovvio anche il mio essere. Ma non ti preoccupare, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Quello che mi pare, non ti preoccupare, quello che mi pare. Mi sento bene, mi sento bene.